La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi, 25 secondi in diretta da finalmente una infreddolita Milano, va, e tutte le donne che lavorano qua al sede sulle 24 ore, battono i denti. Ma insomma, siamo ad aprile, che 27 gradi c'erano. Allora, per fortuna è tornato il freddo e qui a ringraziarvi come sempre per l'ascolto in diretta in podcast con Oscar Giannino, la versione di Oscar, che vi ricorda l'indirizzo. La versione dell'Oscar @radio24.it vi dice subito che oggi, e vi spiegherò non solo oggi, oggi torniamo, non lo facciamo da un po' di tempo, ad occuparci di mezzogiorno, perché io mi picco, io sono per l'efficienza, libero mercato, eccetera eccetera, ma quante volte in questi anni sono tornato a dire: però noi facciamo finta di non vedere quello che succede nel sud, essendo io un critico dell'interventismo, il bilancio, ma non un critico del fatto che avremmo dovuto imparare delle lezioni e mettere in atto altre strategie, mentre a me pare invece che non ne mettiamo in atto nessuna per quello che succede nel mezzogiorno. Allora, lo spunto di oggi, quindi benvenuti gli ascoltatori da Napoli, ma non solo da Napoli, in tutta Italia, è quello che avete trovato sui giornali di oggi e che ieri è stato annunciato dalla Giunta Municipale di Napoli, dal suo sindaco De Magistris, come la risoluzione del comune di rendersi disponibile, anzi di iniziare a monitorare le critiche, anzi non le critiche, insomma, le offese, chiamiamole così, gli oltraggi a Napoli, come occasioni nelle quali l'amministrazione comunale querela e si costituisce parte civile contro chi ha emesso quei tipi di giudizi, chiamiamoli così, diffamatori. E la domanda quindi è molto semplice, siccome è un'iniziativa abbastanza senza precedenti, comunicata anche con molta enfasi dell'amministrazione comunale napoletana e dal sindaco De Magistris, è ovvio che io vi chieda, siate a Napoli o fuori Napoli, se pensate che sia giusto non solo che in realtà i sindaci e i comuni si mettano a fare questa specie di tutela delle piccole patrie italiane, ma in particolare poi se Napoli e il sud, estendiamoci, ma Napoli sia giusto che reagisca in questo modo. È ovvio che scattano immediatamente dei riferimenti, ricordate quando Salvini nel recentissimo passato ha tentato di andare lì, ci sono state manifestazioni con anche forme non proprio solo legalitarie, il sindaco e l'amministrazione avevano rilasciato dichiarazioni che Salvini l'avevano montato invece che smontato nell'enfasi, e allora è ovvio che uno immediatamente gli viene in mente questo. Cioè la lunga coda, per così dire, della polemica frontale contro il sud e Napoli. Però è questo il modo giusto? Chiamateci, io sono interessato a capire la vostra opinione. Quindi 800 24 00 24. Io ieri, a dire la verità, e qui finisco perché poi passiamo ai due ospiti, a me non convince molto questa cosa, non convince molto, perché mi sembra che poi questa storia che si va sempre in tribunale in Italia, io già non la sopporto, quando io non querelo mai, quando ho beccato le querele, fino a questo momento sempre vinto, ma detto tutto questo, credo che non sia in tribunale che si misurano le opinioni, ecco. Soprattutto quando poi sono le sparate, misurarle in tribunale, la mia opinione è che, tranne quando ci siano diffamazioni personali su fatti precisi, l'articolo 21, cioè la libertà delle opinioni, copre anche le opinioni più, come devo dire, eccessive, no? Ecco, io la penso un po' così, ma questa è la mia opinione personale, che non conta nulla. Quindi a me non piace in generale questa storia, ti querelo, figuriamoci. Io credo che come la misuriamo la diffamazione a Napoli, ma un fatto però, questa iniziativa ieri, quando ho subito twittato, ho detto: beh, comunque geniale, perché coglie un punto, cioè coglie, sia pure con l'enfasi di un leader politico che sta animando questo tentativo a Napoli come se fosse una forma nascente di sistema di governo locale alternativo rispetto a quello della forma che c'è nel resto d'Italia, perché chi segue le vicende napoletane sa che De Magistris ha questo costante riferimento, no? Al fatto che dal basso il popolo napoletano, la città derenzizzata, eccetera eccetera eccetera, però è ovvio che fa riferimento anche alle polemiche sud dimenticato, sud filone della storia revisionista, sudista, fin dall'inizio dell'annessione calpestato, eccetera, dai piemontesi, da un sistema amministrativo che non era il suo, depredato le sue risorse e così via. Allora, c'è tutto questo e, a dire la verità, a me non convince molto. Però mi è sembrata una trovata. E allora mi sono detto, parliamone. Allora, gli ospiti con cui parlarne oggi sono, da una parte, il vice direttore del Mattino Federico Monga. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. E dall'altra, Pino Aprile, che in questi anni, coi libri che ha scritto, diciamo, è un punto di riferimento obbligato di questa intellettuale forma di riscossa, insomma, zannuta, dentuta, polemica nei confronti del fatto qui, fin dall'inizio, il Sud ha preso schiaffi e così continua. O sbaglio, Pino Aprile? Intanto buonasera a tutti. No, non sbagli, nel senso che se un'affermazione fin dall'inizio, questo non è un fatto che viene proposto, come dire, da me, era già stato ampiamente, abbondantemente proposto. Basti dire che un asceta, un mistico dell'Unità d'Italia come Giustino Fortunato, quando si rese conto di quello che stavano facendo, scrisse: l'Unità d'Italia è stata la nostra rovina, questi sono più porci dei peggiori porci nostri. Per dire, poi Giustino Fortunato era di una levità, anche quando scriveva, parlava nei rapporti con gli altri. Sì, non era, diciamo, consueto a questo tipo di espressione. Perché? Perché tu, per esempio, hai citato le polemiche sul Sud dimenticato, ma Giannino, non sono polemiche. No, no. Il Sud è dimenticato per l'alta velocità, è dimenticato persino per i treni, è dimenticato per gli aeroporti, è dimenticato per le autostrade, è dimenticato. Il Sud non esiste nella politica dell'Italia. No, no, questo è un fatto, voglio dire, ogni anno l'occasione del rapporto Svimez, oramai da un numero di anni impressionante, è una specie di i numeri aggiornati di questa cosa, che però, diciamocelo, Pino, rimbalzano sull'agenda politica nazionale, perché anzi la reazione in questi ultimi anni è stata: ah beh, ma voi insomma criticate solo e sempre, non sapete vedere il nuovo che avanza, ecco. No, ma in questi ultimi anni poi l'idea era: al Sud bisogna parlare delle eccellenze, non del fatto che che ci sono al Sud, non dico di no, però questa storia dello storytelling positivo, non è che ci dimentichiamo di quello che poi non funziona, se è la prevalenza. Però ecco, quindi in questo hai ragione. Esatto, permettimi una cosa, hai detto, diciamo, lo storytelling, cioè il racconto, la narrazione, il TV di Stato, ecco, non parliamo nemmeno dei giornali privati, Corriere della Sera, Repubblica, nazionali, si fa per dire, perché tutto quello che è nazionale in Italia è nordico, con l'aggiunta di un Sud, che viene però trattato come viene trattato. La TV di Stato, telegiornale di Stato, ricerca fatta recentissima da due sociologi veneti, hanno analizzato il TG1 negli ultimi 30 anni, tempo dedicato nei titoli, nei servizi del TG1 TV di Stato al Sud 9%, ma questo 9% quasi al 100% mafia. Mafia, criminalità. Quindi se tu per 30 anni racconti al paese che il Sud è un come dire, è lì un dettaglio, un'aggiunta, il 9% sta lì proprio perché ne devi parlare, non solo, ma vale solo come mafia, cosa ti aspetti dopo? Mm. Quindi aspetta, comune. Andiamo subito al punto, alla fine di questo primo intervento, e poi andiamo dal vice direttore al Mattino e facciamo poi un secondo giro dopo l'introduzione al traffico. Ma secondo te, quindi, alla luce di tutto questo, che è quello che in questi anni anima i tuoi interventi, le tue opere, quello che scrivi, non solo da parte tua, ripeto, perché lo Svimez significa economisti, eccetera, eccetera, però rimbalzando Viesti, tante persone, insomma, di grande tradizione culturale, accademica, intellettuale. Ma secondo te, quindi, alla luce di tutto questo, di ciò di cui sei convinto, fa bene De Magistris, ha colto un punto positivo secondo te? Beh, ti posso dire che questa cosa mi secca moltissimo. Perché? Ma sì, perché noi con delle persone, gli amici, degli economisti, eccetera, giornalisti, stiamo varando un'iniziativa che si chiama Sud 2.0. Mm. Bene, al punto della lista delle cose da fare c'era l'istituzione di una serie di studi legali, una sorta di anti-defamation league, cioè di lega anti-defamation league, sì, chiaro. Sì, come hanno fatto negli Stati Uniti i neri, eccetera, che vuol dire che la prossima volta che un ministro razzista si permette di dire, restando ministro e non avendo nessuna replica, nessuna cosa in Italia, Napoli è una fogna da derattizzare perché anche i topi votano e rimane al governo, la prima volta che un rappresentante dell'Italia, come è stato fatto, il primo era Calderoni, il secondo Borghezio, in Parlamento europeo di parlare dei meridionali come merdacci mediterranei e via di seguito, e tu prova a immaginare che io adesso, siccome, come dire, sono un terrone ampencazzè, io comincio a dire quelle merdacce subalpine, quella fogna di Milano da derattizzare, come vi sentite voi? No, vabbè, ma questo è ovvio. Però ecco, stavate pensando a questa cosa per uffici legali, come una specie di anti-defamation league per tutelare il sud, perché volevate fare quello che De Magistris, un po' bruciandovi sul tempo, magari ha pure sentito nell'aria che arrivava questa cosa e vi ha bruciato sul tempo. Quindi sì, la gente non ne può più, però ecco, quello secondo che non te ha capito il resto d'Italia è che il Sud, lo ha scritto la SVG, se ti ricorderai, è stata fatta un'indagine importantissima da parte della SVG di Trieste, che dice così: il Sud è in uno stato preinsurrezionale, io adesso rabbia, disgusto, eccetera eccetera. Vabbè, il gusto lo capisco, preinsurrezionale ci andrei piano perché è un aggettivo un po' SVG, cioè, lo so, per carità di Dio, io non nego che l'abbia scritto, ma preinsurrezionale a me viene in mente, siccome sono vecchio, capisci, molti di Reggio Calabria, preferirei evitare qualcosa di simile nel prossimo futuro. Ma il problema di un gap fortissimo testimoniato da ogni numero, cari ascoltatori, la potete mettere come volete perché io già vedo le reazioni e basta, no, nei nostri ascoltatori del nord, guardate, la potete mettere sul reddito pro capite, la potete mettere sull'unità di investimento pubblico, unità di capitale di investimento pubblico, come la mettete la mettete, la potete mettere su il costo per un impiego bancario giù e su in Italia, il gap è si è aggravato ed è clamoroso, cioè un paese non può credere di vivere con andare avanti insieme, perché come è chiaro a chiunque, continuare a volgersi dall'altra parte significa semplicemente che va peggio per tutti, cioè questo mi pare che possiate condividerlo anche voi in ascolto, che state criticando brutalmente in questo momento la scelta di parlare, di porci il problema. Ecco, sentiamo il vice direttore del Mattino, dal vostro e dal tuo punto di vista, Federico Monga. È stata una mossa, diciamo, un po' furba, cogliendo nell'aria e intorno a sé tutto ciò di cui parla Pino Aprile, oppure è una cosa che in realtà mette altra benzina sul fuoco invece che, come chiunque deve governare, dovrebbe dare delle risposte e spegnerli i fuochi piuttosto che alimentarli? Che dici, Federico? Ma io, guarda, voglio dire due cose. La prima, che ieri quando è arrivata questa notizia in redazione, a me la prima cosa che mi era venuta in mente è stato il Ministero della Verità di quel genio di Orwell, che in 1984, nello stato immaginario di Oceania, aveva previsto tra i vari ministeri anche appunto questo Ministero della Verità, dove si creavano i testi letterari, dove si formava la propaganda, e quindi insomma mi ha fatto un po' specie. Ha ragione Pino Aprile a dire che c'è un problema di rappresentazione del Mezzogiorno, c'è un problema di considerazione del Mezzogiorno. Noi sul Mattino, lo stesso Pino Aprile, ha scritto tanti pezzi anche per noi, noi lo facciamo quotidianamente, noi siamo l'unica voce del Mezzogiorno nell'editoria nazionale, facciamo battaglie per il Mezzogiorno. Mi sembra che però questo ufficio querele del sindaco, che noi insomma abbiamo giudicato come una difesa dell'immagine appaltata alla demagogia, non sia utile per far sì che ci sia un riscatto del Mezzogiorno, che si porti una maggiore attenzione al Mezzogiorno. Semmai forse dovrebbe essere la classe politica meridionale, anche con un rapporto diciamo trasversale, una coalizione trasversale, che nelle varie sedi istituzionali si coalizzi per cercare di ottenere maggiore attenzione, maggiori investimenti, minori disparità. Noi abbiamo fatto battaglie per gli asili nido, per i finanziamenti alla sanità, per la scuola. A mio giudizio, insomma, giudizio del nostro giornale, questa idea di De Magistris, se la classica sparata che non porterà da nessuna parte, che serve così ad agitare, a cogliere per carità un certo disagio, un problema reale che però poi alla fine in realtà concretamente abbiamo chiesto anche poi al pareri ad alcuni legali esperti in diffamazione, in risarcimento danni, e di difficile sarà di difficilissima attuazione. E quindi insomma mi sembra un po', diciamo, una cosa classica. Giudizio chiaro, che era quello che avete espresso anche oggi sul Mattino. Adesso un minuto di pausa e poi c'è una seconda domanda per Pino Aprile, una seconda domanda per Federico Munga. Tra un minuto. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Allora, rapidissima risposta di alcuni ascoltatori scelti a caso tra i tanti messaggi. C'è chi dice: i soldi buttati nel sud però non sono serviti a niente. È una critica a come era organizzato quell'intervento. Quando abbiamo parlato con Alberto Brambilla la settimana scorsa del bilancio dei contributi a fondo perduto al sud, era sbagliato lo strumento, non era una questione antropologica di chi la riceveva. Molti di voi invece sono convinti della seconda cosa. Invece, se vi ricordate, non è quello il giudizio che abbiamo espresso con Alberto Brambilla. Se una cosa è sbagliata, non è sbagliata perché chi la riceve e determina lo sbaglio, ma perché è sbagliata nella valutazione costi benefici di chi l'ha decisa, capite? Ecco, punto numero uno. Punto numero due, e basta con il mezzogiorno, ci ridassero indietro tutti i soldi versati da noi razzisti. Allora, anche qua, molte puntate su, diciamo, il netto da ricevere e così via. Però, detto questo, guardate che questa idea che si resta solo laddove sono contributi netti i soldi, noi non è che spacchiamo l'Europa e non è che spacchiamo l'Italia, ma inizierete ad applicarla anche tra provincia e provincia. Allora, io sono per macro regioni, diciamo, convergenti, però se seguite questo criterio, che è il criterio di Marco, per dire l'ascoltatore, per capire, con questo criterio non si va da nessuna parte, però, a essere chiari, cioè non resta più niente se non la micro unità più ricca che vuol tenersi il tutto, e questo non è un'idea accettabile. Ecco, io che sono per il modello svizzero, che però si può applicare a stati piccoli. Però detto tutto questo, ci sono anche tanti ascoltatori che dicono: no, Pino Aprile coglie un punto, perché qui la politica l'ha levata questa roba qua. Attenzione a dire, e ho finito, e scelgo solo quest'altro, dice: 90% di assenteisti al sud. Vi ricordo che questa cosa deriva dalle vostre orecchie, eh? Il grande caso dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, era l'assenteismo a Sanremo, per essere chiari. Certo, Loreto Mare a Napoli, l'ospedale, incredibile situazione. Questa settimana, la settimana scorsa, i 7 ispettori del lavoro sospesi sono a Pavia. Non facciamo finta di ascoltare solo alcune cose, perché il problema è diffuso, mi pare, a prescindere dalle aree geografiche. Poi c'è un'altra cosa. Come, Giannino, ci ricordi sempre l'aggiornamento annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate delle stime di evasione IVA? Verissimo! Dal punto di vista provinciale in Italia la stima dell'evasione IVA supera il 40%, è praticamente, tranne tre eccezioni, tutta in provincia del sud. La domanda da porsi è: perché? La seconda domanda è: perché lo stesso Stato che lo rileva non incide su il fenomeno? Ecco, e scopriremmo che stiamo preferendo una vasta illegalità per non fare i conti col fatto che gli strumenti sbagliati per sostenere la crescita non abbiamo voluto ammettere che erano sbagliati. Allora, come vedete, risposte diverse, ma per capirci, chiedo a Pino Aprile e a Federico Monga di rispondere a questo punto, due minuti a testa. Pino, non agli ascoltatori che dicono: sì, ma se uno va a vedere il modello meridionale di gestione delle classi dirigenti, il modello De Luca, ci scrive Claudio, il modello De Luca nello stesso PD imbarazza e diventa il modello di una sorta di capataz che magnificano i loro primi grandi elettori che organizzano mangiate e voti clientelari, virgola, vedi primarie a Napoli. Allora, c'è o no fondamento da parte di chi dice queste classi dirigenti del sud, anche le più stimate perché operano come De Luca, no? Che passa un po' come il grande operatore che a Salerno se ne fotteva dei problemi e andava avanti, però eternano un mito negativo? Che dice Pino Aprile? Ma che dico, che a me per esempio De Luca non piace, ma lo preferisco a quelli che gestiscono, andando anche in galera, presidenti della regione, il più grande tangentificio di sempre, il Mose, cioè l'opera, 8 miliardi di soldi buttati letteralmente a mare e in tangenti, perché il Mose non funziona e sarà dannoso, ma ha prodotto un sacco di tangenti. È il consiglio regionale più arrestato, inquisito e come sorta indagine di sempre, e dalla gestione Formigoni e adesso a quella Maroni, quello lombardo. Prendete l'elenco dei vicepresidenti lombardi, da Formigoni in poi, sono quasi tutti finiti in galera. Provate ad immaginare che sia successo, quanto ai grandi soldi dati al sud, la Cassa del Mezzogiorno restituire, ma magari 0,5% del prodotto interno lordo, e i soldi mandati dall'Europa per ripianare il deficit, il gap nord-sud, quindi dovevano essere spesi al sud, sono stati spesi per il 73% al nord. Non solo, ma quanto al Ministero della Verità esiste già. E per esempio si chiama da noi Ministero dell'Istruzione, ed è quello che nel 2010 ha disposto che debbano essere esclusi dai programmi di studio della letteratura italiana del Novecento, il secolo più fertile di sempre ed un secolo fondamentalmente letterariamente meridionale, tutti gli scrittori e i poeti meridionali, incluso i premi Nobel. Quasimodo e Grazia Deletta. Cioè tu dici che ci sono gli estremi per una vera e propria operazione di, per così dire, pulizia razziale. Beh, insomma, ma ti immagini in Francia che il Ministero dell'Istruzione esclude tutti gli scrittori e poeti della Francia del Sud, anche se hanno preso il premio Nobel, perché meridionali? Allora, vabbè, no, chiarissimo. Allora, tu hai risposto alla domanda. Federico Monga, tu però, tu personalmente, perché io ti conosco, mascherina, tu sei un nordista trapiantato a Napoli. Esatto. E quindi come la vivi sta cosa? No, ma io guarda, appunto, io sono un nordista non solo trapiantato a Napoli, ma innamorato di Napoli, e io racconto a chiunque venga qua quanto questa sia una delle più belle città al mondo dove vivere. Io per la mia professione ho avuto la fortuna di girare anche in tante città italiane e credo di non essere mai stato così bene come a Napoli. Ah. Però vedi, le risposte che hanno dato, che tu hai scelto, sì, tra i tuoi ascoltatori, cioè, cosa segnalano? Segnalano che iniziative come questa non fanno altro che esacerbare gli animi, mettere uno contro l'altro. Napoli, una delle grandi caratteristiche e bellezze di Napoli, è che Napoli è la città della tolleranza, dell'accoglienza, del dialogo. Quindi un'iniziativa del genere che assomiglia, prima ho parlato del Ministero della Verità, adesso voglio parlare del Tribunale del Popolo, un Tribunale del Popolo telematico, è molto pericolosa. Vi faccio un esempio, ti do una notizia. Tra i primi ad essere insomma denunciati a questo ufficio è stato proprio il Mattino, perché sul suo sito internet, da un gruppo Facebook è stato denunciato, perché sul sito internet abbiamo scritto che in Spagna sono stati arrestati 3 napoletani per traffico di droga. Questi erano di Castellammare di Stabia, quindi non erano napoletani. Ho capito però. Hai capito dove si va a parare? Allora io poi allora mi chiedo, ma quando Saviano critica e fa la battaglia culturale con De Magistris per dire l'immagine di Napoli, allora Saviano rischia una querela? Chi lo sa? Però insomma, quando mi dicono piemontese polentone, anche cortese, tu, no, ma se iniziamo a querelarci un con l'altro è finita, secondo me. Chiarissima anche la tua risposta. Sentiamo rapidamente due ascoltatori, 30 secondi a testa. Cominciamo con Enza da Napoli. Tu sei favorevole o contraria all'iniziativa De Magistris? Sì, salve, buonasera a tutti. Io sono favorevole solamente per un motivo, perché siamo stanchi di sentirci sempre tutto questo fango sulla nostra città, sui napoletani che ogni giorno lavoriamo onestamente. E quindi veramente credo che sia utile. E poi un'ultima cosa vorrei porre all'attenzione, ad esempio, un piccolo esempio, c'è un patrimonio inestimabile del Banco di Napoli, adesso in Chiesa San Paolo ha messo in vendita il Monte di Pietà, il luogo dove è nato il Banco di Napoli, e invece di porlo diciamo come bene, anche come servizio per la cittadinanza, istituire ad esempio un museo del risparmio. Certo, tu dici, aveva più senso per quello che rappresenta, esatto, un bene pubblico, magari anche per la cultura finanziaria e l'alfabetizzazione finanziaria. Questo mi pare un buon suggerimento, Enza. Comunque Enza dice sì, Alberto da Treviso dice sì o no a De Magistris? Salve, io dico no, perché nonostante credo che sia sempre una cosa positiva quando un sindaco si mette in prima persona, diciamo, sì, a lottare per la sua città, io credo che sarebbe stato molto meglio investire il tempo e i soldi per dare invece un'immagine positiva della città, per contrastare quelle polemiche che si fanno facendo qualcos'altro, voglio dire. Chiarissimo. Io devo dire che condivido un po' le preoccupazioni di Federico Monga, ma fin da oggi vi dico, domani vi stupirò, perché abbiamo scelto una che combatte senza chiacchierare troppo nella grande Napoli. Io vi invito domani ad ascoltare, a me, lo dico sinceramente, mi si accappona la pelle a sentire cosa racconta, quindi io domani vediamo un po' di problemi da risolvere. Ecco, intanto oggi abbiamo discusso e abbiamo capito che i due partiti sono ben separati. Controllato su Radio 24 con me e Alessandro Milan, domani mattina appuntamento alle 8:20 come sempre, attenti noi due.